Allora, stasera, vabbè, tutti quelli che sono qui chiaramente sanno, avranno letto la locandina, avranno letto l'annuncio e sanno di che cosa parleremo. Trattando i punti che la locandina recitava, cercheremo di mostrare senza veli il conflitto in corso e nello specifico il ruolo della politica dell'Italia sia nei riguardi dell'Ucraina, sia nella presenza del Mediterraneo e di conseguenza nel continente africano. Quando si parla di stati, prima di essere strumenti di oppressione di un popolo su un altro, sono strumenti di una classe sopra un'altra classe, e questo vale per tutti gli stati del mondo. Quindi, quando si parla di Russia e di Ucraina o qualsiasi altra entità statale, teniamo presente questo fatto. La guerra vera non è quella che ci raccontano attraverso la propaganda, arma sempre più importante nell'epoca dei social e dell'immagine, con i media mainstream che non fanno altro che dilatare le notizie prodotte dagli apparati di imbonimento ideologico tesi a perpetuare, quello che vi dico adesso non è farina del mio sacco, ma tesi a perpetuare le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti, cioè la classe che è la potenza materiale dominante della società e in pari tempo la sua potenza spirituale dominante. Questo è Marx Engels nell'ideologia tedesca. Quello che l'informazione cartacea e immateriale ci racconta spiega poco di quello che effettivamente succede sul campo. Le notizie che abbiamo a disposizione per capire sono fornite dagli apparati dei contendenti che raccontano la loro versione dei fatti. Un dato certo è che la guerra in corso determina un caos nella geopolitica dell'Europa. Questa guerra, che merita l'appellativo di permanente, è il proseguimento della Seconda Guerra Mondiale e ha compiuto un salto di qualità, diciamo così, con la guerra in Ucraina, in Europa, nel mercato più ricco del mondo. Questa sera cercheremo di fare dei ragionamenti, che significa dimostrare attraverso fonti, documenti, dati, che quello che diciamo non è frutto di ideologia, ma tramite la ricerca e lo studio dei fatti e dei documenti che i relatori hanno consultato, siamo stati determinati a sostenere. Nell'ultima parte della locandina noi citiamo anche la questione del disfattismo, perché noi non siamo solo contro questa guerra, ma siamo anche contro la loro pace, perché la loro pace prepara le guerre. Lascio la parola a Daniele. Faccio meno del microfono perché si sente, giusto? Vabbè, no. No, perché certo. Usiamo il microfono, così va bene, si sente a maggior ragione. Allora, intanto ringrazio, come al solito, i compagni dell'invito, che c'è questa opportunità di porre delle riflessioni. Riflessioni che in parte sono state fatte da anni attraverso convegni, attraverso manifestazioni di ogni tipo, che è il ruolo del Mediterraneo, soprattutto dal punto di vista energetico. Accenneremo pochissimo di questo perché sono argomenti che penso che ormai sono assolutamente noti. Per porre poi invece il focus su un aspetto particolare, che è la trasformazione del Mediterraneo in Medio Oceano. Gli analisti, o chiamate come volete, stanno rivedendo il concetto del Mediterraneo come terra di mezzo, di collegamento per i grandi traffici del commercio mondiale. Sostanzialmente tutto ciò che viene dal produttivo Oriente arriva al mercato europeo. Qui avvengono degli scambi di merci e poi vedremo come, con quali mezzi tecnici, e questo scambio di merci poi prosegue verso l'altro mercato, che è quello americano, e da lì si rifà il giro. Quindi il Mediterraneo sta avendo una funzione di oceano di mezzo E questo è a sua volta da una spinta al cambiamento dei processi di produzione ed è anche conseguente del cambiamento dei processi di produzione, delle evoluzioni tecniche e delle evoluzioni tecnologiche. Quello che continuo a dire ed è importantissimo che bisogna recuperare la capacità di osservare nel vivente che qualsiasi fenomeno che accade nuovo, magari imprevisto, imprevedibile, non è un fenomeno che accade così spontaneamente, ma è la conseguenza a sua volta di un cambiamento. Quindi noi dobbiamo avere la capacità di collegare tra di loro gli aspetti differenti, cioè quello che ci sembra caotico, quello che ci sembra che avvenga così in modo scomposto, per dare invece una visione d'insieme, ed è quello che tenterò, parlando del Medioceano, di dare oggi questa visione. Premessa: la geopolitica noi spesso la intendiamo come semplicemente un qualcosa che sta sugli Atlanti, un qualcosa di fisso, di statico, un rapporto di potenza di stati o di influenze di uno stato sull'altro. La geopolitica non è un qualcosa di statico, è un qualcosa di assolutamente dinamico, banale, perché è chiaro che cambia. No, la geopolitica cambia anche e sta cambiando in funzione, e il Medio Oceano, cioè il Mediterraneo, ne è una prova, in base alla capacità di scambio delle merci del ciclo mondiale di produzione. Il Mediterraneo sta diventando il punto logistico mondiale. Quindi la geopolitica è un concetto mobile, cambia di prospettiva, si allarga, si allunga, si accorcia. E vedremo come geograficamente si allarga, si allunga e si accorcia. Come il Mediterraneo non è l'entità geografica che conosciamo, ma come un Mediterraneo molto allargato e ancora più allargato attraverso gli scambi mondiali. Quindi quello che era il mare Nostrum sta diventando questo Medio Oceano, cioè questa area di collegamento tra l'Oceano Sino-Indiano, cioè il Mar Cinese Meridionale, l'Oceano Indiano, il Canale di Suez, il traffico. Per ora, perché poi c'è l'Artico che sta cambiando moltissimo le cose, lo scioglimento dell'Artico. Con Radio Cane faremo la seconda puntata sull'acqua, che dimostrerà come lo scioglimento dei ghiacci artici cambierà profondissimamente la geoeconomia e la geopolitica negli anni successivi. Ma per ora è un fenomeno che non si sta ancora concretizzando. Rimaniamo al concreto che oggi c'è. Quindi questi flussi classici che dall'Oriente attraverso il Corno d'Africa arrivano qui attraverso il canale di Suez per arrivare al mercato europeo, che è uno dei due mercati di riferimento della produzione asiatica, invece sta cambiando moltissimo proprio per tutto ciò che ho detto. E allora vediamo nei dettagli quali sono i singoli elementi per metterli in connessione tra di loro e ricostruire come in un corpo vivente, una, dopo l'anatomia, una fisiologia, e quindi dare una forma, un volto a questo corpo vivente. Allora, tutti sanno che le merci mondiali viaggiano per il 90% via mare, primo punto. Il mare sta diventando il punto centrale e non è un caso che da un punto di vista tecnico-militare, non posso per questione di tempo dilungarmi molto, la marina sta avendo molta più importanza di quello che sono i fanti e di quello che è l'aviazione. E le future navi non avranno i cannoni e i missili, ma avranno altre armi che controlleranno soprattutto i cavi di internet, che i cavi di internet è il sistema circolatorio del processo di produzione mondiale. Quindi il mare sta avendo un'importanza enorme, la stessa identica importanza che aveva allora nell'impero romano, quando si chiamava Mare Nostrum. Non è cambiato molto rispetto ad allora, punto di collegamento, di scambio tra l'Oriente e l'Occidente. Il Mediterraneo rappresenta dal punto di vista geografico, meramente geografico, l'1% di tutto il globo acqueo, però in questo 1% avviene il 12% di tutti gli scambi mondiali. Quindi vedete come la geografia assume un'altra forma, un'altra dimensione rispetto al valore economico. Il valore economico che dà una forma geografica, non è viceversa, non è la geografia che dà la dimensione economica. Quindi le navi che attraverso Suez scaricano le merci qui, come... Dimmi, quale? La geografia? Adesso, se l'1% dal punto di vista geografico rappresenta il Mediterraneo, però qui avviene il 12%, quindi sta a significare che quell'1% magicamente di lati confini sino ad avere un 12%. Quindi la geografia non è una cosa statica, ma una cosa dinamica. La questione fisica dipende da altri soggetti. Non esiste banalmente come se noi fotografiamo la Terra dall'alto, vediamo qualche Mediterraneo, dico beh, conta quel che conta. No, attenzione, conta per altri fattori, non solo per quello che geograficamente è. Questo è importantissimo. Cosa succede? Succede che l'Italia, con i suoi 7.500 km di costa, sta fisicamente, questa volta, al centro del Mediterraneo. L'Italia dipende per l'81% delle export e per il 74% dagli import da via mare. Noi senza il mare non riusciremmo a importare soprattutto energia e ad esportare i nostri prodotti. Ricordiamo che l'Italia è il secondo paese manifatturiero dopo la Germania, quindi qualcosa si conta in campo europeo. La piccola e la media industria sono gli attori principali nelle nostre esportazioni. I trasporti su acqua sono 3 volte quelli su strade, sono 12 volte quelli su rotaia, e vedremo poi come la rotaia è direttamente interconnessa con l'acqua. Il paese Italia nostro, non a caso, è un paese di trasformazione delle merci, un'economia di trasformazione, cioè importa materie prime, le lavora e cosa fa? Queste materie lavorate e esportate vengono esportate. Quindi, concetto fondamentale, libro bianco della difesa. Come ha detto Marco prima, tutto ciò che noi diciamo è documentato e documentabile. Tutto ciò che io dico discerne dai documenti ufficiali del Ministero della Difesa, tutte cose che potete trovare agevolmente in tutti i documenti, sono tutti pubblicati su internet. Nel libro bianco della difesa, che è le linee guida, edito 2015 dall'allora ministro Pinotti della difesa, veniva esplicitato in un modo chiarissimo, nettissimo, che cos'è l'interesse nazionale. Per interesse nazionale si intende assicurare al nostro paese l'importazione dell'energia di cui noi siamo mancanti. Energia fossile, innanzitutto, gas e petrolio. E nel contempo assicurare il buon esito, la protezione delle nostre esportazioni. Questo da tenere presente. Quindi la funzione dello strumento militare è quello di assicurare l'importazione energetica, quello di assicurare il buon esito delle esportazioni. Quindi è chiaro che se noi abbiamo 7.500 km di costa, siamo nel mezzo del Mediterraneo, siamo un'economia di trasformazione, dobbiamo assolutamente far sì che da un punto di vista economico e militare dare senso e sostanza a questa grande piattaforma logistica. E non è un caso che io ho presentato questa prima parte di lavoro, che poi mi auguro che con un compagno qui presente potremo sviluppare in modo più organico partendo da gennaio, l'ho presentato a Taranto, perché Taranto diventa il centro fondamentale, nevralgico. Perché? Per una ragione molto semplice. Propongo sempre nei miei incontri, quando parliamo di questa cosa, un'equazione semplice. Energia, profitto, uguale apparato militare, o uguale guerra, vedete voi. Non è un caso che Taranto è la sede storica, 2 anni dopo l'Unità d'Italia, di che cosa? Della Marina Militare Italiana, arsenale. Gli arsenalotti hanno formato il proletariato da sempre, da fine 800, il proletariato tarantino. E allora a Taranto si è tenuta una conferenza importantissima, presente i responsabili delle autorità portuali della Puglia, il capo di Stato Maggiore della Marina, il capo di Stato Maggiore della Difesa e il pensatoio che sostiene la difesa, sostiene tutte le ragioni di Confindustria, tutte le ragioni dell'ENI, che è la nostra unica multinazionale, che è l'IMES. Erano presenti 2 specialisti sul Mediterraneo ed era presente soprattutto il direttore di l'IMES. Mi invito a seguire questa conferenza, dura 2 ore e mezza, veramente molto interessante, tenuto nel marzo scorso. E lì si diceva esattamente questo, capo di Stato Maggiore della Marina: se l'Italia diventa il centro mondiale degli scambi, perché siamo il centro del Mediterraneo e perché il Mediterraneo diventa il centro mondiale degli scambi, noi siamo fisicamente questa volta proprio il centro del centro, noi con la presenza della Marina Militare possiamo assicurare il buon esito di questi scambi e quindi necessita di implementare lo strumento della Marina. Ma c'è un altro aspetto. Ho detto prima che noi dobbiamo, dall'anatomia, dobbiamo arrivare alla fisiologia. I porti, gli scambi portuali, hanno un senso solo se io ho due capacità. Primo, di trasformare le materie che lì arrivano, i prodotti che arrivano, perché non arrivano sempre prodotti finiti, arrivano anche semilavorati e lì vengono trasformati. E questa è la capacità dell'area portuale di creare un'economia attorno, una rete economica per la trasformazione dei prodotti. Secondo punto fondamentalissimo è che gli hub portuali siano collegati in via terra. L'Europa, 9 anni prima dell'entrata in euro, cioè già all'epoca del trattato di Maastricht, che pose le fondamenta poi per la creazione dello strumento finanziario, cioè dell'euro, allora, ed è significativo che già allora, prima che esistesse l'euro, ha progettato le grandi vie TEN, cioè del trasporto veloci delle merci. Le vie dell'alta velocità non servono per spostare le persone, servono per spostare le merci. Ne sono state progettate e finanziate 9. La più famosa è quella da Lisbona a Kiev, che poi ha perso progressivamente di importanza, famosa perché è inutile qui richiamare i motivi perché poi è diventata famosa. Di queste vie ben 6 partono da nord e arrivano al Mediterraneo. Questo a significare che il collegamento, la ferrovia, il trasporto veloce, gli investimenti dell'alta velocità servono ed esistono solo se sono collegati al sistema portuale, cioè agli hub portuali. La più importante è il corridoio numero 9. Corridoio numero 9 collega Helsinki sino alla Valletta, Valletta che sta al centro del Mediterraneo, quindi attraverso tutta l'Italia e arriva a Taranto. Perché arriva a Taranto? Per un motivo semplice. La Cina, abbiamo detto che qui nel Mediterraneo arrivano i prodotti dell'officina del mondo, che è la Cina, o comunque i prodotti orientali in genere. Arrivano nel Mediterraneo e la Cina, come sapete voi, ha comprato il più grande hub portuale, il secondo al mondo, per capacità di ricevimento dei container. I container sono lo strumento tecnico attraverso il quale viaggiano le merci. L'ha comprato dove? Nel porto del Pireo, interamente di proprietà cinese. Ma se voi andate nel porto del Pireo per arrivare in Germania, in Danimarca, in Belgio, cioè nei grandi mercati del nord Europa, provateci con un'automobile e poi mi dite quanti giorni impiegate. Quindi è impossibile, non è economicamente possibile, dal Pireo portare le merci sino al cuore dell'Europa. E allora cosa succede? Ecco dove entra in gioco il cambiamento tecnico. Le grandi merci dall'Oriente vengono portate qui in Occidente attraverso i container. E il container, che ormai ha quasi più di 70 anni come realizzazione tecnica, ma in realtà è molto più giovane, perché il container in sé non conta nulla se non viene trasportato da una progettazione di navi che non ha più di 20 anni, cioè le super container. Vi ricordate che circa 2 anni e mezzo fa si incagliò a Suez una super container e questo gli analisti hanno calcolato che si avrà una ripercussione di quasi 2 anni e mezzo sulla produzione cinese per una sola nave che si è incagliata a Suez. Quindi queste grandi navi super container arrivano al porto del Pireo. Lì che cosa fanno? Scaricano su altre navette di minor dimensione e vanno negli hub europei, soprattutto negli hub italiani. Non esiste solo Taranto, esiste anche Bari, esiste anche Gioia Tauro, sono in concorrenza tra di loro perché il capitalismo è la concorrenza. Taranto diventa un punto nevralgico perché? Perché lì arriva la famosa alta velocità del corridoio 9. Quindi via terra, alta velocità, via mare, soluzioni tecniche, porta container e le altre navette che servono per trasportare dei grandi hub come il Pireo nei porti, chiamiamoli, di seconda fascia, rappresenta la soluzione. Questa soluzione tecnica, attenzione, è governata da un processo, dal digitale. Se non ci fosse stata l'espansione digitale che appena agli inizi, non avremmo potuto articolare questo movimento di merci. Voi dite, ma cosa c'entra il digitale con la super container o con l'alta velocità? C'entra in questo senso, che è cambiata totalmente la modalità di produzione mondiale. Una volta si produceva merci per poi accatastarle in un magazzino, lì ricoverarle, giacenti, e poi destinarle a secondo degli ordini di vendita, cioè dei compratori, del mercato, come tirava il mercato. Oggi no. Il digitale ci dà la possibilità in tempo reale di calibrare esattamente la mia produzione rispetto alla domanda. Just on time. Io produco per quello che ragionevolmente so di poter vendere. E allora ecco che le mie previsioni di produzione sono regolate sulla previsione di vendita. Le super container che trasportano in misura di 5-6 volte rispetto a quelle che le container tradizionali trasportavano solo 15 anni fa, ma hanno una velocità che è il doppio rispetto a quelle che avevano 15 anni fa, mi permettono velocemente di trasportare questo. I grandi hub portuali collegati con le grandi reti ferroviarie dell'alta velocità mi permettono di trasportare velocissimamente le merci, merci che non sono più in eccedenza, perché vengono prodotte per quello che io so che posso ragionevolmente vendere. Ma non è finita. Il problema sempre di trasporto delle merci, da quando il Mediterraneo era il Mare Nostrum dei Romani, era che poi una nave imbarcava merci, dovunque le imbarcasse, arrivasse al porto d'approdo, le scaricasse e poi vuota ritornava ad imbarcare. Costo oggi non più sopportabile. Oggi più nessun mezzo, che sia navale, terrestre o ferroviario, può permettersi un tragitto vuoto. È un costo non sopportabile. Ecco che allora cosa succede? La funzione di medioceano, di hub, di scambio reale delle merci mondiali. Si scaricano le merci per il mercato europeo, attraverso le linee dell'alta velocità, si caricano contemporaneamente le merci negli hub, si va sul secondo mercato di riferimento, quello americano, Canada, Stati Uniti. Si carica e si ripete il tragitto. Oggi una nave non può viaggiare sostanzialmente vuota. E questo il digitale governa perfettissimamente, dà il ritmo, è come un'orchestra, dà il ritmo, dà la melodia allo scambio delle merci mondiali. Quindi vedete come tecnologia, scienza, scoperte scientifiche, scoperte tecnologiche, ingegneria e quindi guidano gli investimenti. La finanza guida e fa investimenti per creare un corpo armonico nella circolazione mondiale delle merci. E allora questo sta a significare, ripeto ancora una volta, che la geografia, se la vediamo come un punto fisso su una carta geografica, in realtà non l'è più, perché queste carte geografiche si allargano, si spostano. E come si sono spostate? In due modi. Una col concetto di Mediterraneo allargato. Mediterraneo allargato è un triangolo equilatero, il vertice sta nell'Italia perché sta nel centro del Mediterraneo, il lato sinistro scende attraverso il Nord Africa per arrivare al Golfo di Guinea, dal Golfo di Guinea si allarga la base attraverso il Centro Africa, Corno d'Africa, va sino allo Stretto di Hormuz che è nella penisola arabica, sale per l'Iraq, sale per la Siria, arriva in Libano, dove non a caso abbiamo una delle più importanti missioni internazionali italiane, e si ricongiunge. È un Mediterraneo in questo triangolo allargato. In questo Mediterraneo allargato, l'Italia, che è il secondo paese al mondo per numero di missioni militari internazionali dopo gli Stati Uniti, e se facciamo la tara di quanto pesa l'Italia dal punto di vista economico, finanziario e militare rispetto agli Stati Uniti, è un dato stupefacente, perché siamo davanti a Francia e a Inghilterra. Bene, delle nostre 48 missioni internazionali all'estero, ben 25 sono in Africa. Perché in Africa? Perché, ricordatevi sempre l'equazione che vi ho proposto, energia, profitto, guerra. Perché se voi andate a sovrapporre la presenza delle nostre missioni militari con la presenza dei pozzi di estrazione, che siano mare, che siano terra dell'ENI, c'è una coincidenza del 98%. 98%. La politica dello Stato italiano, la politica estera, non si fa alla Farnesina, si fa qui a San Donato Milanese. Questo deve essere chiaro. Ho qui dei documenti che poi magari nel dibattito, non adesso, farò vedere come i capi delle relazioni internazionali dell'ufficio ENI dal 2009 ad oggi vengono distaccati non come consulenti ma come dirigenti operativi presso il Ministero degli Affari Esteri, che è il Ministero della Difesa. È il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri. Ma tutto viene ricondotto a ENI, sempre con la famosa equazione che vi ho proposto. Perché ENI? Diamo due numeri semplici. Su 1,8 milioni di barili di petrolio che ENI ricava ogni giorno, che sono quelli che voi vedete in televisione, l'unità di misura del petrolio, 1,4 derivano da questo Mediterraneo allargato. Il 92% di tutto il gas che ENI ricava ogni giorno deriva da questo Mediterraneo allargato. Non abbiamo qui il tempo di andare nel dettaglio nei singoli paesi, ma questa è la situazione. Quindi c'è una perfetta corrispondenza, sovrapposizione, i giovani qui che usano di più il digitale di me, il copia incolla tra ENI, missione e militari, quella famosa equazione che io vi proponevo. E allora, siccome noi dobbiamo sempre basarci sui documenti ufficiali, e invito ad andarvi a leggere, il documento ufficiale portante che viene fatto ogni anno è quello del documento programmatico pluriennale della difesa, attualmente è uscito ad agosto 2022-2024, perché è il più importante? Non solo perché viene descritta la strategia della difesa italiana, che è poi la strategia del Ministero degli Esteri, che è poi la strategia dell'ENI, ma perché lì sono contenute nel dettaglio, nell'estremo dettaglio, tutte le spese degli armamenti. Perché nella cifra che poi dirò a conclusione di questa mia chiacchierata su quante sono le spese militari, lo anticipo subito, sono escluse le spese degli armamenti. Nella spesa che poi dirò, che è stupefacente, negativamente stupefacente, sono escluse le spese degli armamenti. Qui c'è tutto il dettaglio, oltre che le linee strategiche. E allora è interessante, è doveroso andarlo a leggere nelle linee strategiche. E allora qui ci accorgiamo come questo triangolo allargato, in realtà questo triangolo diventa ancora più allargato nei suoi concetti fondamentali. Da quando è caduto il muro noi non abbiamo più nessun riferimento. Io mi ricordo una cosa che è stata trasmessa da Rai Storia, che uno dei più, scusate la parola che non è mio uso descriverla, ma uno dei più negativi, diciamo così, non voglio dire parolacce, personaggio della politica italiana, un vero proprio rappresentante di interessi innominabili, che era il signor Andreotti, venne intervistato il 25 aprile, di quel famoso giorno in cui venne ammainata la bandiera rossa sul Cremlino, e l'intervistatore gli disse: ma lei è contento che ha fatto tutta una vita per combattere il comunismo, sarà felicissimo oggi? E lui disse una cosa molto semplice: no, non lo sono, perché sino a ieri io sapevo qual era il mio nemico e cosa dovevo fare, d'ora in poi io non lo so proprio più quale sarà il mio nemico, e mi sa che io dei nemici ne avrò molti di più di quanti ne ho avuto oggi. Risultato, parole dette allora, tradotte nel documento. Documento pluriennale di difesa, edito ad agosto, dice questo, importantissimo. L'instabilità politica mondiale non è più esclusivo prodotto di competizione dei singoli stati, quello che diceva Marco, ma è anche parte dei grandi attori non statuali. Prima fra tutte le grandi imprese multinazionali, il cui peso economico è cresciuto in una misura tale da assumere rilevanza anche in termini geopolitici e geostrategici. Quello che diceva Marco, gli interessi di classe. E allora andiamo avanti. Cosa succede? E queste sono parole che hanno un peso enorme. La perdita, leggo testualmente, questo è il documento del Ministero della Difesa, la perdita di rilevanza delle tradizionali organizzazioni internazionali di riferimento a trazione occidentale, cioè NATO e Unione Europea in primis, e la deriva multipolare che sembra connotare le dinamiche geopolitiche mondiali con nuove alleanze a geometria variabile, sono sostenute più da interessi contingenti che da vere e proprie affinità politiche. È finita l'era della affinità politica, ritorniamo al discorso di Marco, finalmente è emerso un quadro più chiaro. Gli interessi di classe, che non hanno ideologia, non hanno barriere, non hanno, ma hanno uno solo scopo, quello di arrivare velocemente in modo efficace all'affare. Ma questo Mediterraneo allargato, che ho detto io prima, si allarga ancora di più. La geografia diventa ancora più mobile. E dov'è? E qui arriviamo al conflitto russo-ucraino. Il Mar Nero. Io allo scoppio della guerra dissi e scrissi su Umanità Nova che non era assolutamente l'Ucraina tutta l'obiettivo da invadere, ma era rafforzare il controllo del Mar Nero. Il Mar Nero è sempre stato, sin dall'antichità, sin dai tempi del Mare Nostrum, un punto geoeconomico e geopolitico fondamentale. Cavour mandò le nostre truppe là in Crimea a combattere. Bene, e allora il Mar Nero è quello che gli analisti definiscono un'ellissi strategica dell'energia. Nel partendo dal Mar Nero e venendo al Mediterraneo allargato, in questo triangolo ancora più allargato abbiamo l'80% di tutte le riserve attuali di gas e di petrolio. Chi controlla quindi il Mar Nero e quindi il Mediterraneo, il Mar Nero è mare perché è collegato al Mediterraneo, altrimenti non lo sarebbe, controlla gran parte dell'energia mondiale. Chi la controlla? La controlla una potenza regionale anche, che è la Turchia. La Turchia, per il trattato del 1936, stabilisce lei quale nave deve passare, che sia civile, commerciale o militare. Tanto vero che ha destinato 12 miliardi di dollari per il raddoppio del canale del Bosforo dei Dardanelli. Quindi ecco che questo Mediterraneo allargato diventa ancora più allargato e questa geografia diventa sempre meno un punto fisico, visivo, ma diventa qualcosa che corrisponde agli interessi economici. Quindi il Mediterraneo diventa medio oceano, diventa l'hub degli scambi mondiali delle merci. Ma ritorniamo a quello che diceva il libro bianco della difesa, che cos'è l'interesse nazionale? E assicurare le fonti energetiche che a noi mancano, ma assicurare il buon esito delle nostre esportazioni. Ecco perché Taranto diventa un punto fondamentale, ecco perché lo strumento militare, soprattutto la marina, sta diventando uno strumento indispensabile. E allora se sta diventando uno strumento indispensabile, le spese militari esploderanno. Già sono esplose. L'Italia nella classifica mondiale attuale di spese militari occupa il 10° posto, ma dal 2019 ad oggi è il 1° posto, prima degli Stati Uniti, per incremento anno su anno delle spese militari. Questo incremento è stato enorme lo scorso anno, per cui siamo arrivati alla cifra di 104 milioni al giorno per 365 giorni all'anno. Noi ogni anno per 365 giorni all'anno spendiamo 104 milioni di spese militari. Ma ho detto prima, attenzione, non ci sono le spese per le armi, per gli armamenti. Perché? Molto semplice. Sono talmente ridondanti, l'ultima deliberata è stata di 39 miliardi, che se io lo impito a un solo esercizio commerciale, beh, io in quell'anno ho un bilancio stratosferico. E allora vengono spalmate, se io compro un'arma nuova, progetto un'arma nuova, vengono spalmate su 7 anni. Ci siamo? Per non gravare su quel bilancio, su quell'esercizio. Sì, si fa un conto ragionieristico di spalmatura del costo. Quindi attenzione, quando io dico 104 milioni al giorno sono, ripeto, escluse le spese delle armi. 104 milioni al giorno per chi in questa sala che vive o di stipendi o di attività proprie o di pensioni è tanto, però è talmente tanto che non ci perdiamo qual è la dimensione reale di 104 milioni al giorno. E allora io cosa ho fatto? Io facendomelo certificare da una compagna e da un compagno, perché quando si parla di numeri bisogna non dare i numeri, altrimenti non ci capiamo, sono andato a vedere quali sono tutte le spese sociali. Se l'Italia ha avuto questo andamento lì in su, delle spese militari, per assicurare tutto quello che ho detto prima, ma le spese sociali come sono andate? E allora sono andato a vedere nei conti della Ragioneria dello Stato l'andamento delle spese sociali. Sanità, istruzione, welfare, il mondo del lavoro. potremmo stare qui 2 ore, non prendo 2 ore, poi deve parlare il compagno, ma non le prenderei comunque. Vi accenno solo e semplicemente l'andamento delle spese sociali, alcune 4-5 numeri importanti. Sanità. L'Italia, nella disponibilità di posti letto, è pari ogni 10.000 abitanti a 31,8, cioè a 31,8 letti per 10.000 abitanti, che è la metà esatta del dato europeo. Il personale infermieristico è esattamente la metà di quello di Germania e di Francia. La spesa dell'istruzione sul PIL in Italia è del 3,3%. Siamo al terzultimo posto, sopravanziamo solo la Grecia e l'Irlanda. Potrei continuare all'infinito. C'è un dato purtroppo sui giovani. I giovani dei 15 ai 29 anni, che risultano non occupati, non studenti, in Italia sono il 23,3%, che è esattamente il doppio rispetto alla media europea. Dato ultimo, salari. I salari reali, e quindi quando ho detto questo dato all'inizio di quest'anno, il nuovo direttore dell'Istat, che è poi uno giovane, ha avuto difficoltà nel dirlo, perché è veramente un dato non solo politicamente scorretto, ma umanamente scorretto, soprattutto se lo mettiamo in relazione. Già scorretto di per sé, quello che vi dirò, ma se lo mettiamo in relazione a quell'andamento delle spese militari diventa insostenibile. E quindi aveva difficoltà a dirlo. In Italia i salari reali, il salario reale è quello che effettivamente io in tasca posso andare a fare la spesa o pagarmi le bollette, tanto per capirci, o comprarmi un'automobile, dal 1990 ad oggi sono diminuiti del 2,9%, l'unico paese in Europa in cui sono diminuiti, perché anche la Grecia, che ha avuto quello che ha avuto, ha segnato un più timido 0,1. E allora, per finire, per rendere vivo questo 104 milioni, con 104 milioni che ogni giorno, ripeto, spendo io per la spesa militare, escluso gli armamenti, cioè per il mantenimento delle armi, carabiniere, aviazione, marina ed esercito, spese personali sono circa il 65%, poi ci sono le spese logistiche, che cosa corrispondono? Cosa potrei fare io con questi 104 milioni ogni giorno? Io potrei garantire, e ho fatto una semplice equazione, semplicissima, dopo avermi fatto certificare i conti della spesa sociale, io posso garantire 148.000 ricoveri in strutture ospedaliere, potrei garantire 46.667 terapie intensive, 67.000 interventi sulla retina, 1.661 trapianti di cuore, 69.845 radioterapie, 45.855 cure psicologiche, sappiamo come in questi 2 anni, soprattutto per i giovani, sono stati molto pesanti sotto questo. Io con un solo giorno di spesa militare posso costruire 10, ripeto, 10 edifici di classe AAA di scuola media inferiore, cioè mediamente, per ricoverare 150 ragazzini. E posso assicurare uno stipendio medio lordo a 3.714 insegnanti. Quindi il conto dell'ENI, il conto del Mediterraneo allargato, il conto del Medio Oceano, cioè per garantire lo scambio internazionale della produzione capitalista, perché il Mediterraneo sta diventando Medio Oceano, impone la militarizzazione, impone questi costi del militare, e questi costi del militare lo paghiamo noi attraverso i nostri salari, le nostre pensioni, il taglio del welfare. E concludo in modo molto semplice. La guerra immorale, ma quello che è più immorale non è la guerra, ma è questo sistema economico, quello che è veramente immorale. E un'ultimissima cosa. Il nostro compito è diffondere queste cose, con calma, con perseveranza, diffonderlo. E mi richiamo nella costanza e nella perseveranza a un volantino che il 27 aprile distribuì una formazione partigiana, Brigata Rocco, faceva parte delle Brigate Garibaldi, entrò a Milano 27 aprile, distribuì questo volantino, molto semplice, un volantino profondamente antifascista ma profondissimamente attuale. C'era scritto semplicemente questo: noi non saremo mai indifferenti, e noi non dobbiamo mai essere indifferenti, e partendo dalla non indifferenza dobbiamo avere la volontà di diffondere questi dati, questi numeri, queste realtà. Grazie. Riallacciandomi a quanto dice Daniele, che ha dato la struttura economica di una vasta area, devo solo dire che in realtà il Mediterraneo non è solo allargato, si allarga sempre di più secondo gli stati maggiori e il governo italiano, perché alla zona che ha detto Daniele dobbiamo aggiungere quella del Mar Caspio, che è collegato al Mar Nero da canali e da pipelines, e Mar Caspio, in cui abbiamo importantissime riserve di petrolio, tra cui quelle dell'Azerbaigian, che in questo momento ci stanno portando non solo il petrolio ma anche il gas, quelle del Kazakhstan, che affaccia sul Mar Caspio, e quelle della Russia e dell'Iran. Ma oltre a questo, il concetto di Mediterraneo allargato per il nostro Stato Maggiore arriva oltre il Golfo Persico, cioè all'Iran, all'Arabia Saudita, al Pakistan e più a sud e a ovest al cosiddetto Corno d'Africa, cioè alla mitica Somalia che fu colonia italiana, a Gibuti, all'Etiopia, all'Eritrea. Quindi si tratta di un teatro enorme che l'Italia ha sempre ritenuto di dover, non dico dominare, ma di dover vedere come l'area in cui predomina non solo economicamente, ma politicamente e militarmente, con avventure che ci perseguitano, lo sapete, dal 800 al 900, guerra di Etiopia e così via. Ora, quando si parla di Mediterraneo allargato, il nostro Stato Maggiore, Daniele ha citato il programma, il documento programmatico che viene ogni anno fatto dal Ministero della Difesa, sono 300 pagine in cui dicono anche quante armi compreranno quest'anno ufficialmente, quale tipo di armi, quali tipo di investimenti fanno negli aerei, fino ai razzi, fino alle pallottole. Ma a parte questo documento, che è ponderoso e anche assai noioso certe volte, ci sono due scritti interessanti che escono ogni anno. Uno è il concetto strategico del capo di Stato Maggiore della Difesa, che in questo momento è un ammiraglio, Cavo Dragone, che è stato fatto nel settembre 2022. Lo trovate sul sito, basta digitare, ma lo trovate sul sito del Ministero della Difesa. L'altro è il documento elaborato dal Ministro della Difesa, che all'epoca era Guerini, il pidista, che è stato fatto nel maggio di quest'anno, 12 maggio, e strategia di difesa, di sicurezza e difesa per il Mediterraneo. Lo trovate anche questo sul sito del Ministero della Difesa. Sono due documenti più agili, che però sintetizzano in modo estremamente chiaro non ciò che effettivamente pensano, ma ciò che vogliono presentare a noi. Poi vi sono altri documenti, è stato particolarmente importante quest'anno il convegno di Madrid della NATO, di quell'associazione di assassini, che ha pubblicato il concetto strategico della NATO, che sostituisce quello del 2010 e va fino all'orizzonte 2030, e che in sintesi si può dire una sola parola: la NATO è un'organizzazione mondiale e il suo nemico è la Cina, punto. Il che significa che la NATO si vede come centro della politica di guerra guerreggiata non solo in Europa, non solo nell'Atlantico, ma nell'Indo-Pacifico. Questi sono i documenti fondamentali. Poi c'è un ridicolo documento, lo trovate sul sito dell'Unione Europea, sul cosiddetto compasso strategico europeo, in cui l'Europa dice: noi non valiamo niente, l'Unione Europea dice, noi non valiamo niente, siamo un appendice della NATO, in estrema sintesi. Detto questo, secondo me, dati gli sviluppi della guerra, gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, che è una guerra non russo-ucraina ma Russia-NATO, Russia-Euroatlantica, e dietro alla Russia abbiamo anche altre potenze, dati gli ultimi sviluppi, non dobbiamo vedere solo il fatto puramente economico, ma dobbiamo vedere le grandezze politiche e militari che poi portano a un mutamento non solo della nostra vita economica, ci manca il gas, ma portano a un mutamento della nostra vita sociale e politica. Tu non puoi attaccare lo Stato italiano, la politica militarista. I giovani nelle scuole devono essere educati a rispettare l'esercito e ad arruolarsi o a sostenere lo sforzo militare, eccetera. E questo il tratto relativamente, non che sia nuovissimo, ma è accelerato dalla guerra. E parto da questa constatazione. Da un punto di vista economico, i rapporti tra Europa, Unione Europea, sostanzialmente la Germania e l'Italia soprattutto, e Russia erano rapporti chiari, convenienti per tutti. Materie prime fornite regolarissimamente da un lato, petrolio, gas e anche altre materie, contro un prezzo pagato a lungo termine e tecnologie per uno Stato, quello russo, un'economia, quella russa, che non è industrialmente avanzata, lo è senz'altro rispetto ad altri paesi, ma non rispetto all'industria tedesca e tantomeno all'industria italiana, che non è quella tedesca, ma comunque è una stazza notevolissima. Questo rapporto così chiaro, elementare, che ha condizionato la nostra vita, è stato rotto, demolito da un fatto sconvolgente che è avvenuto un mese e mezzo fa. Il gasdotto Nord Stream 2 e Nord Stream 1 è stato fatto esplodere. La manina, la manona, il piede è senz'altro americano o inglese. E questo comporta non solo un fatto economico, ma un fatto politico. Perché? Perché gli Stati Uniti, perché l'ancella serva degli Stati Uniti, la Gran Bretagna, perché la folle borghesia polacca, hanno detto chiaro e tondo che non si può, né per la Germania né per l'Italia, la Francia ha una posizione un po' diversa, mantenere quei rapporti di lungo periodo che avevano con l'Est Europa e attraverso l'Est Europa anche con la Cina. Con l'Est Europa voglio dire con la Russia, e la Russia è anche una potenza asiatica. E qui c'è una questione non economica ma politica. Gli Stati Uniti hanno voluto dimostrare in modo militare che pur avendo perso gli Stati Uniti l'importanza economica, non sono più i primissimi al mondo, stanno per essere raggiunti da altre potenze, la Cina, ma perfino l'India, nella prospettiva, e gli Stati Uniti hanno deciso di giocare la carta militare per portarsi dietro, volenti o nolenti, gli europei e garantire con la presenza europea la rottura di un sistema economico mondiale che era basato su quella rete di enormi scambi quotidiani che Daniele ha illustrato. I containers che partono dalla Cina, passano all'Europa e arrivano negli Stati Uniti sotto altra forma. Ma questa trama, che era già in crisi per motivi economici su cui non voglio dilungarmi, poteva essere rotta e doveva essere rotta non economicamente ma politicamente. E difatti gli europei, l'Italia in particolare, qui verrò all'Italia, si sono apparentemente allineati a quello che ha detto Biden. Non solo si fa la guerra militare alla Russia con la pelle degli ucraini, ma si fa la guerra alla Russia rompendo i rapporti con la Russia, isolando la Russia, puro avventurismo che porterà a conseguenze ancora peggiori. Ci dobbiamo chiedere, ma perché l'Italia? La Germania, dovremmo parlare prima della Germania, data la sua importanza, ma vediamo casa nostra. Perché l'Italia si è fatta rappresentare da quella testa atlantica di Draghi, da un uomo che viene da una scuola proprio americana, da una scuola economica americana, da una scuola politica americana, e che per tutto l'anno 2022, prima della guerra e dopo, fino all'ultimo giorno in cui è rimasto a Palazzo Chigi, ha dichiarato una fedeltà atlantica a tutti i costi, da un lato, e un'inimicizia aperta, offensiva nei confronti della Russia. Perché l'Italia, che con l'ENI è stata la prima potenza europea ad aprire al petrolio russo 60 anni fa e poi ai gasdotti siberiani, perché se il gas arriva in Europa lo si deve alla Snam Progetti, al nuovo Pignone, cioè a quelli che hanno costruito quei gasdotti. Perché l'Italia, che ha costruito la prima fabbrica automobilistica europea in Unione Sovietica, a Togliattigrad, la Fiat a Togliattigrad, e che ha sempre avuto con la Russia, pur nel quadro della sua permanenza italiana nell'alleanza atlantica, dei rapporti molto profondi, ha accettato di svolgere questo ruolo. Secondo me lo possiamo capire più che dal terreno economico, dal terreno politico. Primo, l'Italia è una, dopo forse le Filippine o il Giappone, ha il maggior numero di basi americane. La NATO in Italia ha una presenza storica eccezionale e la sua presenza militare non ha solo determinato azioni di guerra, basta pensare a quello che hanno fatto gli americani durante la guerra partendo da Sigonella per guidare le cosiddette offensive ucraine o l'affondamento del Moskva, no? Perché erano i droni americani, erano i satelliti americani basati anche in Italia che facevano quello che dovevano fare. Basta pensare al MUOS in Sicilia che controlla tutto il Mediterraneo. ma la NATO per noi è stato ed è ancora una minaccia politica. Ricordiamoci che la NATO era Gladio e di conseguenza non è solo presenza militare, è anche presenza politica, intervento sulla nostra situazione politica. E questo deriva dalla posizione di sudditanza italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma questa sudditanza è servita ancora, viene accettata ancora dall'Italia. Perché? Perché l'Italia è una potenza europea, è uno Stato fondatore dell'Unione Europea, ma, proprio come diceva Daniele, è il centro, vuole essere il centro del Mediterraneo. E per fare questa politica l'Italia ha bisogno degli Stati Uniti, perché solo appoggiandosi agli Stati Uniti, così come si appoggiava agli Stati Uniti anche per fare affari con la Russia, può avere un ruolo in Africa in concorrenza con la Francia, può avere un ruolo nel Mediterraneo in concorrenza con la Francia, con la Spagna, per quanto interessa, con la stessa Turchia, che è un concorrente molto attivo, e può avere un ruolo nei confronti della Germania. Cioè, senza il bastone americano, che è un bastone che ci è rivolto anche contro, ma di cui i nostri fenici governanti, perché dire levantini non basta, hanno sempre avuto bisogno, proprio perché dicono: vabbè, ci prendiamo questo bastone, ma lo usiamo per affermare una nostra posizione autonoma o di relativa potenza rispetto ai nostri concorrenti più pericolosi, che dove stanno? Stanno in Europa, è la Germania, è la Francia. E da questo punto di vista entrano grandezze politiche. L'Italia è serva degli Stati Uniti per il proprio interesse e fa una politica assolutamente di concorrenza con i suoi alleati europei, sapendo che l'Unione Europea è un nido di vipere, non da oggi, che è profondamente divisa al suo interno, che non può fare una politica comunitaria, ma che può fare soltanto accordi temporanei tra gli Stati europei quando conviene a loro andare insieme. Un aspetto di questa situazione, di questa politica italiana, lo si vede in un anno. Oggi è novembre 2022. Nel novembre 2021 il presidente della finanza francese, Macron, è venuto a firmare il trattato del Quirinale con il sacerdote della Repubblica Italiana, cioè il presidente Mattarella, che è l'uomo più rappresentativo, perché è stato presidente della Corte Costituzionale, ministro della Difesa, le ha fatte tutte Mattarella, e quindi è al suo posto non a caso. Ha firmato il Trattato del Quirinale, che sembrava un accordo che finalmente riconosceva da parte della Francia all'Italia un posto. Perché la Francia, che aveva praticamente fatto la guerra all'Italia in Libia nel 2011, dopo le contromosse italiane, e non mi dilungherò sulla guerra libica, sulla spartizione della Libia, eccetera, e dopo le difficoltà affrontate dalla Francia in Africa, la Francia teneva in Africa, l'ha tenuto fino a ieri, una forza di attacco spaventosa di 5.000 uomini, solo forze speciali, potentissimamente armate, che dovevano reprimere i movimenti di rivolta negli stati del Sahel, sotto l'Algeria Mali, Chad, Niger, Burkina Faso. Questa forza, che ha portato morte e distruzione per 10 anni, ha dovuto ritirarsi ieri. È un fatto storico. Ma prima di ritirarsi, la Francia ha dovuto chiedere l'aiuto degli europei, in special modo dell'Italia, e ha permesso a loro di entrare militarmente nel centro dell'Africa, che un tempo era un giardino riservato solo all'influenza francese per il controllo delle materie prime e delle masse che stavano lì. Bene, sembrava che ci fosse un accordo di ferro tra Italia e Francia. Cosa ha fatto? Cosa è successo questa settimana tra Italia e Francia? È successo che la Meloni e il simpatico prefetto diventato ministro degli interni, Piantedosi, hanno preso a calci in faccia la Francia, che ha reagito proprio oggi in modo assolutamente stizzito, dicendo che non collaborerà con l'Italia sulla questione degli immigrati, cioè sulla questione del controllo dell'Africa. Non collaborerà con l'Italia per la suddivisione degli immigrati raccolti dalle navi delle organizzazioni non governative, e rivedrà tutti i suoi rapporti con l'Italia. Questo significa che proprio in Europa, per l'Italia, abbiamo le insidie più insidiose, e per questo motivo l'Italia pensa, Draghi pensava, la Meloni pensa, oggi stesso la Meloni ha ricevuto anche il capo della NATO Stoltenberg, la Meloni pensa di poter appoggiarsi agli Stati Uniti per fare concorrenza a Germania e Francia. E perché vuol fare concorrenza a Germania e Francia? Perché solo avvalendosi dell'accordo con gli Stati Uniti può penetrare in Africa, può partecipare all'eventuale spartizione. Questo è un piano folle, ma c'è nella testa di alcuni politici italiani e militari italiani, di una Russia sconfitta, può portarsi ad avere posizioni importantissime verso il centro dell'Asia, Mar Caspio, e riserve del Kazakistan, dell'Azerbaigian, eccetera, può contenere la Turchia, Turchia con la quale l'Italia però fa affari, produce armi e fa affari anche, fa accordi politici sotto banco per la presenza turca in Libia, che va bene finché non tocca gli interessi fondamentali dell'ENI. Quindi, oltre alle questioni economiche, dobbiamo vedere quello che si sta muovendo nella politica. E la politica oggi non è politica se non è collegata alla forza. Ma prima di arrivare su questo tema, voglio solo sottolinearvi un altro fatto per l'accordo con gli Stati Uniti, la subordinazione agli Stati Uniti. In questo momento il capitale finanziario italiano, le banche italiane, ma non solo le banche italiane, l'industria italiana, come pure l'industria tedesca momentaneamente, e le banche tedesche, stanno subendo il ricatto della finanza americana. Se per caso l'industria italiana o le banche italiane volessero fare affari con la Russia, sarebbero espulse dal mercato finanziario americano. Ed è lì che per ora si fanno i grandi profitti, partecipando ai prestiti, alle speculazioni di Wall Street e così via. Il capitale italiano subisce questo ricatto, ma ci guadagna, e quindi rimane attaccato alla mammella degli Stati Uniti. Detto questo, vediamo qual è il passaggio da politico a militare. Se il mercato che tende ad essere planetario ed è stato planetario e ha avuto, come dice Daniele, nel Mediterraneo un centro pulsante. Se il mercato si spezza, allora com'è che si risolve la questione? Se abbiamo bisogno del gas, lo dobbiamo andare a prendere o difendere. Se abbiamo bisogno dei dati internet che corrono sui tubodotti sotto il Mediterraneo e sono controllati dall'Italia, ricordatevi, perché i più grandi cavidotti per i dati passano dalla Sparkle, passano dalla Sicilia e sono stati costruiti dalla Telecom Italia, che i finanzieri italiani avidi hanno derubato di tutto, ma non possono, non hanno potuto toccare la Sparkle, la società della TIM che controlla i cavodotti e che fanno dell'Italia la potenza del Mediterraneo, perché i cavi tra Asia, Africa, Europa passano dall'Italia e sono controllati dall'Italia. Se l'Italia non avesse questa potenza reale, non sarebbe una potenza. Bene, se tu devi difendere queste strutture economiche in un mercato che si restringe e quindi richiede la rapina delle risorse, hai bisogno dello strumento militare. Non c'è altra via. E quindi la risposta dell'Italia alla guerra che si svolge tra Russia e Ucraina ufficialmente, ma tra NATO e Russia e quindi tra Italia e Russia, è il riarmo. Riarmo per affrontare attualmente la guerra. Dall'Italia sono partite armi, cannoni che vanno ricostruiti. Dall'Italia sono partiti razzi, sono partiti pezzi di ricambio, eccetera, munizioni. E quindi i militari vogliono questo. Ma un riarmo che va molto oltre e che è la creazione di uno strumento militare integrato che rafforzi la marina, l'aeronautica, l'esercito, lo spazio, cioè satelliti, no, esatto, lo spazio e i centri di controllo informatico dell'esercito, cioè delle forze armate, perché non basta l'esercito. Questo strumento militare, ad esempio, è la portaerei Garibaldi che è stata affiancata dalla portaerei Cavour. La Cavour è costata 1.300 milioni solo per costruirla. Per mantenerla ogni anno in esercizio, secondo me, costa 100 milioni, come minimo, per tenerla ferma, se va a navigare. Sulla Cavour sono alloggiati gli F-35. Gli F-35 sono gli aerei attualmente più moderni, che non sono un semplice aereo che si alza, vola, bombarda o intercetta. Sono uno strumento militare nuovo che coordina altri mezzi di attacco o di difesa, droni, satelliti, navi. Quindi si chiama multidominio, terra, mare e esercito. Poi si va oltre, perché gli F-35, l'Italia non ne ha molti, però l'Italia è l'unico paese europeo che ha una fabbrica per gli F-35. Gli americani per ora hanno dato fiducia al governo italiano, che sia di centro-sinistra, che sia di centrodestra, che sia di destra, non interessa, costruendo in Italia la fabbrica qui a Cameri, la fabbrica Faco, che costruisce le ali dell'F-35, ma assembla gli F-35 non solo per l'Italia, ma per tutti i paesi europei che gli americani li vendono e li manutenziona. L'altra fabbrica degli F-35 si trova in Giappone, cioè gli americani costruiscono loro l'apparecchio, ne detengono i segreti che non spartiscono con gli italiani, ma consentono a italiani e giapponesi di fare i proconsoli proprio delle armi più moderne. Poi, oltre a questo, l'Italia deve riarmare l'esercito e per riarmare l'esercito sta programmando il potenziamento di 200 carri armati Ariete, poveri carristi, non voglio dire nulla perché l'Ariete è uno dei peggiori carri armati mai prodotti al mondo e continuerà, anche se modernizzato, ad essere uno dei peggiori carri armati. Poi vogliono sviluppare tutto un sistema satellitare e ricostituire, ma non voglio soffermarmi su questo, l'esercito, le forze armate di terra con battaglioni che possano affrontare qualsiasi situazione, eccetera. Bene, detto questo, come si giunge a questa politica di militarizzazione? Si giunge attraverso quello che è detto in modo molto chiaro nel documento Strategia di sicurezza e difesa per il Mediterraneo. Si giunge facendo una politica estera aggressiva verso i paesi del Mediterraneo per garantirsi non solo le materie prime, ma anche un certo controllo della loro politica. Accordi con l'Algeria, che adesso ci fornisce più gas. Accordi con l'Egitto, che col suo esercito è fondamentale per il controllo dell'Africa e di una parte dell'Asia. Accordi con Israele, finché Israele non entrerà in rotta di collisione con l'Italia. Quindi accordi politici con i regimi più schifosi. Secondo punto, sostegno di questi regimi seminacciati. La cosiddetta lotta al terrorismo, sostegno con interventi militari a fianco di questi regimi. Terzo punto, fondamentale per noi, militarizzazione della politica in Italia. Dice la fine del documento del Ministero della Difesa sulla sicurezza nel Mediterraneo. La complessità del Mediterraneo allargato, l'ibridazione dei conflitti, cioè non solo conflitti militari tra gli stati, ma conflitti sociali, la sfumata separazione tra difesa e sicurezza. Difesa significa esercito e forze armate, sicurezza significa polizia interna e anche esterna. La tendenza evolutiva verso confronti dovrà certamente verso confronti multidominio, cioè in cui intervengono tutte le forze armate, aeronautica, navale e esercito e servizi segreti, postulano dunque un approccio sistemico che coinvolga gli altri dicasteri, non solo la difesa, e la difesa dovrà certamente confrontarci e cercare sinergie con il Ministero dell'Interno, con particolare riguardo alla lotta al terrorismo. Sapete cos'è la lotta al terrorismo? Non vi dico, non è l'ISIS, siamo noi. Contrasto alla minaccia cibernetica, controllo dell'immigrazione clandestina e dei fenomeni ad essa correlati, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il quale la difesa rappresenta un importante abilitante in grado di fornire supporto alle attività diplomatiche. La diplomazia quindi è bastone militare, di posizionamento industriale ed economico nel mondo, alla gestione di crisi con la possibilità di fornire risposte di intensità scalabile. Risposte di intensità scalabile significa far intervenire un corpo di spedizione massimo o far intervenire forze speciali medio o far intervenire i servizi segreti italiani per far fuori qualcuno. Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili per gli aspetti inerenti alla sicurezza della rete dei trasporti interni, della navigazione nelle acque di giurisdizione nazionale e della salvaguardia della vita umana in mare. Detto oggi, il Ministero della Transizione Ecologica, c'è Cingolani che è contentissimo, per gli aspetti inerenti alla sicurezza delle infrastrutture deputate alla prospezione e utilizzo delle risorse energetiche e geominerarie e per la tutela ambientale. Il Ministero dello Sviluppo Economico per favorire la competitività del comparto industriale e della difesa. Il Ministero dello Sviluppo Economico, che adesso si chiama Ministero del Made in Italy e delle Imprese, deve collaborare con il Ministero della Difesa per vendere armi. L'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale, elemento organizzativo nel quale convergono le capacità nazionali in materia di cibersicurezza. Il Dipartimento della Protezione Civile. Insomma, il Ministero della Difesa è punto di unione di tutti gli altri ministeri della forza, Ministero dell'Interno, o economici. Non a caso questo governo ha messo quale Ministro della Difesa l'uomo che non ha conflitti di interessi, ha interesse nei conflitti, come è stato detto, cioè Crosetto. Crosetto è passato da stipendiato da Leonardo, che è la maggiore industria di armi italiana e la dodicesima nel mondo, era stipendiato con 600.000 euro, ma non lavorava presso Leonardo, lavorava presso l'Associazione delle Aziende della Difesa, la DAI o la... come si chiama? AIDA, insomma, e che riunisce Leonardo, Fincantieri e altre 150 aziende che dipendono da Leonardo e da Fincantieri per piazzare armi. È la prima volta, qui è peggio che mettere a capo del Ministero dell'Industria un industriale. Questo è l'impiegato della maggiore industria, che poi appartiene allo Stato, Leonardo, che diventa Ministro della Difesa. Cioè, qui il Ministro Guerini, nel maggio di quest'anno, ha rivelato la struttura militarizzata dello Stato italiano. Venendo poi, alla fine termino, struttura militarizzata dello Stato cosa significa? Significa che siamo in guerra, dobbiamo fare la guerra per sopravvivere, lo dicono loro, non l'Italia è in guerra, deve fare la guerra per sopravvivere e rimanere una potenza di medio livello e competere con i concorrenti europei e partecipare anche alla spartizione di altri paesi, deve rimanere una potenza che domina il Mediterraneo, di conseguenza tutta la politica deve essere rivolta al controllo e all'eliminazione di qualsiasi forza si opponga a questa politica. Ci sono tantissimi temi da affrontare, mi fermo qua, ma con questa conclusione. Di fronte alla guerra tra NATO e Russia, noi internazionalisti siamo ovviamente per il disfattismo, a cominciare dalla lotta che dovrebbero, devono o dovranno fare i proletari, i giovani russi contro il loro potere, i proletari giovani ucraini contro il loro potere, contro gli oligarchi, cioè contro i capitalisti che dominano entrambi questi paesi, che hanno una potenza completamente diversa. In particolare gli operai ucraini, i giovani ucraini, hanno di fronte una borghesia che non li ha venduti solo sul fronte, ma li ha venduto loro e i loro figli e i loro nipoti, perché l'Ucraina non esiste più come Stato indipendente, è indebitato e dovrà pagare per centinaia di anni i prestiti fatti dagli americani, dagli europei e così via. E questo è un compito loro, speriamo che ci siano forze che possano farlo. Ma noi abbiamo il nostro compito, che è la lotta contro il nostro imperialismo, che è sempre più una potenza statale militare e militarizzata e militarizzante. Di conseguenza è nostro compito attaccare in modo sistematico non solo gli interessi sporchi dei capitalisti che producono armi e che addirittura hanno il loro rappresentante, il loro impiegato come ministro della difesa, ma la politica di organizzazione. Nelle scuole si farà propaganda militare, nelle fabbriche si dovrà lavorare e lo sciopero sarà vietato. Lo è di fatto già, ma in modo militare. Dovremo quindi organizzarci per una lotta accanita, politica, contro questa marcia borghesia che ci sta portando al macello. Ricordiamoci che l'Italia ha una tradizione per portare al macello il suo popolo, i suoi operai, i suoi giovani. Le guerre, la guerra del 66, la flotta italiana massacrata a Lizza, i carri armati, cioè la prima guerra mondiale, 600.000 fanti uccisi e ammazzati anche dai carabinieri di quel agli ordini dei generali, no? Che poi si sono fregiati della vittoria. La seconda guerra mondiale che è finita come è finita. L'industria dell'armamento italiana poi è particolarmente criminale. Basta pensare a come non armò durante il fascismo, ti ricordi i carri armati di Alamein, e come anche adesso in tutti questi programmi che potremmo esaminare uno per uno troveremmo la truffa, il guadagno anche sulle viti dei carri armati che non vengono messi, insomma questi lucrano sulla morte e portano morte. Tocca a noi combatterli. Ecco, se qualcuno collegato vuole fare qualche domanda, gli diamo la precedenza e si faccia vivo, oppure se qualcuno in sala si prenoti. Sì. No, se vieni qua però, perché così si sente. Cosa intendi per distrattismo? Rivoltare le armi contro gli ufficiali. Ok, però vedo magari. Anche gli ufficiali generali e perfino i marescialli d'Italia. Chiaramente questa è la conseguenza che non prendiamo posizione per nessuno dei fronti che oggi sono in guerra. Se non c'è nessuno, Salve a tutti, sono Giuseppe di Proletari Comunisti, ma più che domande e cose varie vorrei partire dalla condivisione di una serie di cose che sono state dette. Parto dal discorso della centralità che è stata detta da Daniele all'inizio di Taranto, proprio perché a Taranto non è casuale che esiste da anni un movimento contro il militarismo italiano e da questo punto di vista anche noi partecipiamo come proletari comunisti a questa battaglia e tra l'altro ci sono state le prime manifestazioni in questo paese proprio contro l'intervento militare. E quindi non sto a ripetere quello che ha già detto Daniele. L'altra questione è quello del, io la dico come prendere posizione, anche se che è stata detta dall'intervento conclusivo, quello di intervenire contro questa guerra, per cui riteniamo fondamentale che serate di informazione e controinformazione come questa debbano essere sviluppate. Da questo punto di vista pensiamo che non solo in questa città ma anche in altre realtà a partire da Taranto questo si debba trasformare anche in iniziative concrete che raccolgano anche a livello nazionale, perché poi il problema l'abbiamo a livello nazionale, questo dibattito, ma un dibattito per l'azione da diffondere. Da questo punto di vista, e chiudo e poi passo all'invito ai presenti, abbiamo un rapporto per così dire privilegiato con i compagni di organizzazioni e partiti comunisti in Tunisia, e in questo non è stato citato ma è uno dei paesi dove l'Italia interviene proprio non solo per la questione della regolamentazione, per così dire repressione dei migranti, ma interviene anche per come si suol dire mantenere una sua autonomia che di fatto esiste per il reperimento del gas, materie prime. Chiudo dicendo che a gennaio, il 23, ci sarà un convegno a Taranto, quindi un invito ai presenti se dare la loro disponibilità a partecipare a questo convegno proprio per dibattere ma anche per diffondere queste serate, queste iniziative. Grazie a tutti. Ma io pure, apprezzando molto quello che è stato detto negli interventi, vorrei dare anche un'occhiata su quello che sta succedendo sul campo della guerra. I russi si stanno ritirando da Kherson, mi pare che si chiama Kherson. Cioè, questa è una ritirata strategica, nel senso che poi pensano di riconquistare quello perduto con maggiori forze, questo non lo so, oppure se è una manifestazione di debolezza effettiva. Può darsi, cioè la Russia non sta messa bene da un punto di vista economico-sociale. La fuga che è stata fatta di tanti che sono scappati, chi è che è scappato? I cervelli. Cioè, non credo che sono scappati gli ultimi delle regioni siberiane, cioè sono scappati quelli di Mosca, di Pietrogrado, cioè quelli che effettivamente dovrebbero essere quelli che tengono in piedi un po' la baracca socio-industriale. Sì, certo, il militare è importante, cioè il complesso militare industriale è importante. È importante come è negli Stati Uniti, che praticamente sì, controlla molto le mosse del presidente. Però le elezioni di mezzo termine, che sono state l'altro ieri, non hanno tolto a Biden, diciamo in maniera clamorosa, l'appoggio, però insomma hanno dimostrato che la guerra non paga tanto in termini di popolarità negli Stati Uniti. Probabilmente i contribuenti americani non se la sentono più, non se la sentono molto di continuare a finanziare questa guerra. Sì, certo, c'è chi ci guadagna ovviamente. I produttori di gas americano ci guadagnano, ma non è detto che tutti ci guadagnano. Diciamo, bisogna vedere il pro e il contro di queste cose per capire come andrà avanti la guerra, o se andrà avanti, quanto andrà avanti. Insomma, fra molti che ci guadagnano, cioè, questa guerra molti ci perdono. Non solo dei proletari, anche di strati, diciamo, anche borghesi o piccolo borghesi, eccetera, eccetera. Quindi bisogna tener conto anche di questo. Un'altra cosa che volevo dire, quindi dicevo che l'escalation, come si diceva una volta, delle attività militari, io personalmente, diciamo, sì, indubbiamente può essere un'ipotesi, ma non è così immediata come molti dicono, almeno a mio avviso. Cioè, ci sarà l'inverno adesso, ci sarà il solito generale inverno di Napoleone e dei nazisti, che rallenta un po', poi ci sarà un incontro importante da tenere presente a Bali, fra Biden e Xi Jinping, il 14 dicembre, previsto già nell'ambito del G20. Non so cosa si diranno. Comunque, diciamo, un'altra cosa che bisogna dire è che questa segmentazione del mercato mondiale, che è stata ovviamente quella che è stata chiamata globalizzazione, chiamiamola mercato mondiale, cioè in termini marxiani, come la borghesia ha sempre fatto, il capitale, il capitalismo, questa segmentazione del mercato mondiale non è così facile. Gli Stati Uniti non c'hanno manco i chip, cioè quelli che sono importantissimi per qualsiasi cosa, anche militare, adesso non li producono. Biden ha detto che vuole riportare negli Stati Uniti questa produzione, come Trump voleva riportare negli Stati Uniti la produzione delle automobili. Trump non gliel'ha fatta, perché General Motors ha detto: ma io vado in Messico e il costo del lavoro è molto inferiore. Non è che sì, il mio centro è qua in America, cioè tutto il sistema di comando, però la produzione la faccio da un'altra parte. Quindi anche sulla storia dei chip è così. Taiwan è la maggiore produttrice di chip, e quindi chiaramente lì uno scontro ci sarà su questo piano. Se poi porterà uno scontro militare fra Cina e Stati Uniti, quello è da vedere. Però diciamo, io penso che la questione economica, economico-sociale, non economica stretta, che sta alla base di tutto, è molto importante. Sì, certo, il politico è importante, però mi sia consentita una battuta: quand'è che l'autonomia del politico di stampo trontiano, se vogliamo, la finirà di rompere le scatole? Cioè, alle questioni molto importanti di economico, sociali, di sviluppo, eccetera, no? Cioè, probabilmente non finirà, però insomma sarebbe opportuno, anche perché, come dicevo, se il mercato mondiale ormai ha avuto questo grande sviluppo, ce l'ha avuto anche in altri passaggi, non ricordiamoci che all'inizio del Novecento prima della prima guerra mondiale c'è stato un grosso movimento di globalizzazione, di creazione del mercato mondiale, poi è scoppiata la guerra, i protezionismi hanno fatto tutto il resto. Però insomma cerchiamo di vedere tutte e due le cose e cercare di capire quale potrebbe essere il futuro di questa guerra e come può andare a finire. Se ci sarà una tregua, non lo so, questo dipende appunto dall'incontro forse che hanno Biden e Xi Jinping, perché insomma il periodo della globalizzazione si era fondato su uno stretto legame fra Stati Uniti e Cina, cioè il surplus commerciale cinese, delle esportazioni cinesi veniva investito nella borsa di New York per finanziare il debito americano. Ora, cioè, questo era già un po' in crisi, diciamo, a dire la verità, dopo la crisi dei subprime del 2008. Però, insomma, qualche altra forma forse si troverà. Questo è da vedere. Dunque, mi pare che la cornice sia sufficientemente più che completa, per cui posso fare solo qualche nota a margine e un domandone alla fine. Note a margine. Il domandone te la vedi male, eh? Allora, note a margine. La militarizzazione avviene su un campo estremamente vasto dal punto di vista sociale, ma prende un punto comunque molto importante, che è quello della ricerca, perché non solo l'Italia si sta posizionando tra i primi nella costruzione e vendita degli armamenti, nel controllo del cyber security, così si dice, giusto? Cyber security, cioè, lo sbaglio da anni, non c'è verso, nel sistema di organizzazione militare e di controllo delle aree soggette alla guerra o in previsione di una guerra, ma si sta posizionando ai primi posti per ricerca in fatto di strumenti della guerra. La ricerca coinvolge tutte le nostre università, sono ormai tantissime quelle coinvolte in accordi, in intese con l'esercito e con il Ministero della Guerra. Varrebbe la pena di occuparsi di questo aspetto in maniera più precisa e di renderne consapevole la popolazione giovane, perché i ragazzi non sanno che cosa gli aspetta, non sanno qual è il frutto del lavoro, così come è alienato il frutto del lavoro operaio, è alienato anche il frutto del lavoro dei ricercatori, cioè tu fai una ricerca che viene poi impiegata al di là delle tue aspettative della tua consapevolezza. Non si tratta solo di una ricerca sulle alte tecnologie che vanno dai droni ai robot. Adesso c'è in ballo un'altra sfera di ricerca, si chiama soldato sicuro. Tutto quello che può costituire materia di per preservare la vita del soldato evidentemente impegnato nei teatri bellici, perché probabilmente prima o poi, e qui sarà il domandone, si tratta di intervenire direttamente e concretamente con le vite delle persone sui teatri bellici, perché alla fine i proxy finiscono, la guerra per interposto sangue finisce, la gente non ce n'è più, avremo probabilmente da porci il problema dell'intervento sul campo dei nostri ragazzi, perché li chiamiamo ancora così. In realtà ci aspettiamo che siano pedine di un gioco estremamente vasto, pericoloso e violento. Anche perché il corso della guerra in Ucraina tende ad espandersi non solo ad est ma anche ad ovest, tende ad espandersi nei Balcani. La guerra nei Balcani è già programmata da anni e adesso se ne comincia a parlare in senso vero e proprio. Possiamo aspettarcela. L'Albania, il Kosovo, i problemi della Bosnia, tra serbi e bosniaci e gente di etnia albanese. Quindi il fronte, vogliamo o no, si avvicina, non possiamo dimenticarcelo, non possiamo non farci caso. Di fronte a queste cose, noi parliamo di disfattismo, io parlerei a questo punto di qualcosa che mi sembra più completo, di disazione, anche di disazione civile, vale a dire contro l'uso militare della ricerca, contro il fatto che, contro la disciplina sociale che ci viene imposta, contro il razzismo sempre più forzato, perché fino al punto se ne parla talmente a questo punto, in una maniera o nell'altra, a favore o contro, che è diventato normale. È diventato normale parlare di guerra, è diventato normale esporsi proprio in maniera diretta come popolazione razzista. Non so se ve ne rendete conto, basta leggere i giornali, il tono è cambiato. E da questo punto di vista proprio vorrei dire una cosa: se vogliamo pensare a un'opposizione vera al militarismo, alle guerre, alla ricolonizzazione, perché di questo si parla in Africa e in Asia, si parla di ricolonizzazione, non è più l'imperialismo classico, non si vanno a investire il surplus economico, si va direttamente in armi a pensare di occupare le strutture industriali o a produrne di nuove, ad espandere un capitalismo che non è solo onnivoro ma che ha bisogno di centri di espansione diversi dai nostri. Da questo punto di vista credo che dovremmo cominciare a far circolare l'idea che non siamo solamente europei, siamo una popolazione mediterranea e con le popolazioni mediterranee dovremmo avere un confronto che sia di cooperazione, di capacità di opposizione uniti di fronte allo scempio di queste guerre come prima cosa e allo scempio dello sfruttamento che, se va bene, se non finisce il pianeta prima, verrà prodotto da queste operazioni militari. Noi non abbiamo la percezione di essere una popolazione del Mediterraneo, sappiamo che siamo nel centro del Mediterraneo, che siamo il paese, la piattaforma, si diceva una volta, la piattaforma aerea americana, ci sono più di 140 basi USA e NATO in Italia, certo che siamo un paese occupato, ricattato, certo che siamo abbastanza svegli da usare questo ricatto anche per gli interessi propri, non qualsiasi servo tende a rubare al padrone, è bene o male quello che fa l'Italia nei confronti dell'America, ma con le popolazioni, cioè non possiamo pensare di essere altro dai paesi africani, altro dalle popolazioni africane, altro dalle popolazioni asiatiche. Ci stiamo comportando e stiamo facendo, a partire dalle analisi che facciamo, che non contemplano mai la reazione che le società arabe, africane e asiatiche, la reazione che hanno nei confronti della nostra guerra, della nostra cultura di guerra. Disinnescare una cultura di guerra credo che significhi sapere che facciamo parte di una, non solo di un mondo più allargato, ma di una zona del mondo che è sotto pressione e una pressione dalla quale vogliamo sottrarci insieme alle popolazioni mediterranee, africane, asiatiche. Detto tutto, credo. Posso rispondere? Allora, non è un caso che dopo la mia visita a Taranto di luglio, rinnovata poi ad Uropia, ma sostanzialmente abbiamo parlato di un altro tema che l'acqua, ma moltissimi punti in contatto col militarismo. Dall'anno prossimo, con i compagni di Taranto, nella casa occupata di Corso Garibaldi, inizieremo un lavoro nell'università. Quello che ha detto la compagna è fondamentale. Io ho fatto uno studio che è abbastanza datato, perché ormai sono 4 anni, lo stiamo rinnovando in funzione di questa attività che faremo a Taranto, perché 4 anni fa una ricerca analitica università per università sono emerse 304 progetti di ricerca universitaria per 242 università italiane, pubbliche, di piani di ricerca fatti direttamente con l'apparato industriale militare. Quindi questo è un obiettivo già concreto che con i compagni di Taranto bisogna aggiornarlo. Io chiedo sempre collaborazione per aggiornarlo con i compagni di Taranto. Inizieremo questo lavoro all'università, dovrà essere necessariamente aggiornato, però l'obiettivo era già ben presente e sarà da perseguire proprio in questo senso, con un'altra consapevolezza, che quando presentai per la prima volta quello che ho detto adesso ci fu un po' di scoramento il 15 luglio da parte dei compagni, dicendomi sono cose grandissime queste del commercio mondiale, del Mediterraneo che sta diventando un hub mondiale, come facciamo ad opporsi? Noi abbiamo un enorme vantaggio rispetto a decenni fa. Tutta questa costruzione della circolazione delle merci mondiali si basa su degli hub portuali, terrestri. Basta un granello di sabbia in questo meccanismo, buttato là qualsiasi, che noi lo fermiamo. Noi abbiamo un vantaggio enorme. Questa costruzione così scientifica, così particolare, così tecnica, mostra il suo contrario, la sua contraddizione, un'estrema fragilità, perché è tutto così interconnesso che basta toccare 2 o 3 punti in modo contemporaneo, noi fermiamo per mesi la circolazione delle merci. Faccio un esempio: se la fermiamo a Taranto e la fermiamo a Verona, fermiamo tutta la logistica mediterranea nel trasporto mare e il famoso corridoio 9, che è uno dei più importanti, che va da Helsinki sino alla Valletta. Quindi noi abbiamo un vantaggio enorme, e allora non è un caso che dal punto di vista legislativo, partendo dal secondo decreto sicurezza, si sono accaniti in modo particolarissimo contro la logistica, contro lo sciopero della logistica, contro i picchetti, contro i blocchi stradali, contro i blocchi ferroviari, contro i blocchi portuali. Io lavoravo prima della spaccatura che poi c'è stato, purtroppo, con i portuali di Genova, che sapete che sono anni che stanno facendo queste lotte per evitare di imbarcare armi per l'Arabia Saudita. Quindi abbiamo un vantaggio. Quindi ottimo, quella cosa dell'università, già ci stiamo pensando, ci ho lavorato, rinnoveremo con l'aiuto dei compagni di Taranto in modo coordinato, vedremo di andare nell'università. Ultima cosa, quando ha parlato il compagno non più di conflitto di interessi ma interessi nel conflitto, sostanzialmente noi siamo di fronte a una privatizzazione totale della politica. Quando ho detto che la politica estera italiana non la si fa alla Farnesina ma la si fa qui a San Donato Milanese, non è uno slogan. Queste qua sono le 2 lettere che la direzione degli affari generali del personale dell'ENI indirizza, una del 2017, l'altra del 2020, indirizza a direttore generale degli affari esteri della Farnesina, dicendo sostanzialmente, prendiamo quella del 2017, perché ho detto che è dal 2009 che i dirigenti dell'Ufficio Internazionale dell'ENI lavorano presso il Ministero, non come consulenti, ma lavorano per il Ministero degli Affari Esteri. Credo che sia esplicativa leggerla non tutta, ma solo alcuni passaggi. Questa del 2017 annuncia l'uscita di quello che c'era prima, l'arrivo dell'ingegnere Tombolini, direttore, massimo livello, direttore degli affari internazionali ENI, quindi massimo livello, e dice al Ministero, alla Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni globali ed energetiche, Ministero degli Affari Esteri, dice: lascerà il proprio incarico l'ingegner Giuseppe Ceccarini, subentrerà, quindi siamo pertanto lieti di accogliere l'ingegnere Tombolini, che si occuperà degli affari internazionali legati all'energia, all'ambiente e alla sostenibilità. Siamo sicuri che l'apporto dell'ingegner Tombolini potrà dare ai vari dossier internazionali per la diretta partecipazione ai principali organismi energetici globali. Quindi chi va a votare stabilisce un governo e il governo stabilisce un ministro degli affari esteri, possiamo anche evitare, abolire il ministero degli affari esteri, basta andare a San Donato, perché la politica la fa San Donato, così come la politica oggi la fa Crosetto, che è il diretto rappresentante degli interessi affari internazionali. Quindi siamo di fronte a un processo di privatizzazione totale della politica. Questa è la realtà vera. No, c'era. Sull'analisi che ha fatto il compagno dell'economia e quindi degli interessi che nascono attraverso il mare e quindi attraverso la logistica, non ho nulla da eccepire, perché è così la storia, no? Quello che mi lascia un attimino perplesso è la funzione che ha la Turchia, no? All'interno della NATO. La Turchia non è un soggetto estraneo, no? Perché non può permettere alla Russia che si prenda tutta la parte del Mar Caspio e quindi tutta questa zona che sembra una zona così per caso. Quindi la Russia entra lì dentro e chi fa l'intermediario? Lo fa la Turchia, ma la Turchia ha tutti gli interessi perché la Russia non prenda in mano tutta la parte logistica del mare. Questo ci sfugge, ma invece è importantissimo, no? Quindi fa il mediatore, ma media i propri interessi, interviene in questa fase importantissima, ma tutelando i propri interessi, perché la Turchia, tra l'altro, con tutti i soldi che sta prendendo, sta comprando molte aziende in Italia. Quello che ci sfugge è che la Turchia sta comprando, con questi soldi che gli arrivano dalla Comunità Europea, un casino di aziende in Italia. Quindi l'ha comprato nel Foggiano, l'ha comprato a Udine, eccetera, eccetera. Quindi sta facendo una penetrazione anche all'interno del nostro paese, non casuale, perché comunque ha tutti questi interessi. Quindi la sua funzione è una funzione importante, sta in qualche modo tutelando i propri interessi, ma sta fregando anche la Russia. Sembra che comunque stia dalla parte della Russia, ma non è così, perché fa i propri interessi. Io non so Taranto quale hub logistica può avere, perché io conosco Taranto, sono nato a Taranto, no? Quindi come può essere, perché non conosco questi passaggi che tu hai fatto, sulla questione degli hub, sulla questione del Marionio e quindi sulla questione del Mediterraneo, no? È possibile, perché comunque ha le potenzialità, però io non li vedo espressi oggi. I lavori che voi state facendo, che tu stai facendo all'interno di questa realtà, mi sfugge una questione particolare, e quale? Come interveniamo noi all'interno di queste guerre, no? O di questa guerra? Perché il capitale si nutre di guerre, si nutre di morti, si nutre di questi eventi. Quindi se noi nel mondo abbiamo programmato, vengono programmati 60 guerre a bassa intensità e quindi poi in qualche modo li sfuggono e diventano 65, quindi è un problema anche degli interessi economici, perché le guerre si studiano a tavolino e quindi si programmano. Come noi interveniamo? Non interveniamo col sabotare questi percorsi, e come costruire un intervento, perché comunque contro le guerre bisogna intervenire, bisogna organizzare il proletariato, i lavoratori, perché nelle guerre tutti ci rimettono, noi ci stiamo rimettendo come nazione, no? O come italiani o come proletari in queste guerre, ma ci stanno rimettendo in modo particolare gli ucraini e i russi, perché comunque vanno a morire e ci perdono la vita, ma negli interessi di un'economia che comunque è un'economia non nostra, è un'economia che molto probabilmente fa gli interessi degli Stati Uniti o del Giappone o della Cina. Cioè, quindi là o noi riusciamo in qualche modo ad intervenire contro la guerra come guerra, non contro la guerra intesa che si fa in Ucraina, ma contro le 55 o le 60 guerre che sono programmate a livello industriale, perché sono quelli a bassa intensità, ma questa molto probabilmente è sfuggita alla Russia, perché pensava di fare una guerra a bassa intensità con 4-5 giorni, quindi occupare tutta la parte costiera e quindi tutelare l'Ucraina, rafforzare i suoi progetti per gli interessi economici che sono quelli del mare, no? Ma se non riusciamo ad organizzarci all'interno delle fabbriche e del proletariato, noi possiamo fare le analisi che vogliamo, eh? Cioè, quindi vanno bene, perché comunque ci portano conoscenza, ma la conoscenza, se diventa, come tu dicevi, una questione morbosa e individuale, perché comunque siamo diventati più acculturati, non ci serve a nulla. Dobbiamo fare un passaggio oltre. È vero che dobbiamo fare una lotta contro la guerra, ma organizzandoci nei posti di lavoro, organizzandoci nei territori, organizzandoci ove è possibile. Il tuo documento, molto probabilmente io lo metterò nel sito e quindi lo farò girare, e quindi quando avrò altri documenti, ma anche per portare, ampliare il più possibile cos'è la guerra, quali sono gli interessi che ci sono dietro ad ogni guerra e cosa a noi ci viene da queste guerre. Sicuramente nulla, perché ci verrà la fame, la morte e altro. Questo che ci interessa a noi, dare possibilità a migliaia di proletari, capire che la guerra non è una nostra ricchezza, ma una nostra debolezza, e quindi bisogna combatterla in tutti i sensi. Vi ringrazio per l'attenzione. A Taranto Ferrovie Italiane sta mettendo in progetto un treno merci di 1 chilometro di vagoni. No, non c'è. Non è lì sui binari. Sta mettendo in progetto un treno merci. Tutte le informazioni che ho dato ti invito a sentire quella conferenza disponibile su YouTube, marzo di quest'anno, dove ho detto che c'erano tutte quelle autorità, e quindi quelle sono le notizie. Sono lì, e questo sono quelli che poi comunque fanno gli investimenti, indirizzo agli investimenti. Quindi questo è. Da dove parte? Qual è la zona che prende? Non lo so. Sul binario non te lo so dire qual è il binario che Ferrovie Italiano lo fa. Credo che sia nel porto, ovviamente piccolo, nel Mar Piccolo, ovvio, perché è ovvio che lì c'è anche la famosa Ilva. Allora, io volevo ribattere all'intervento di Valeria. L'Unione dei Popoli, lasciamola a Giuseppe Mazzini, scusa Valeria. Allora, l'Unione dei Popoli Mediterranei, Africani, eccetera, significa l'unione coi dittatori e coi finanzieri. Noi vogliamo, noi, cioè, quello che dovremmo volere è l'unione dei lavoratori e degli sfruttati contro le proprie borghesie. E quindi qui rientra, e non abbiamo potuto discuterne oggi perché sono problemi colossali, la questione che la guerra è fatta per il controllo delle masse in Africa e delle masse in Europa, in Ucraina e in tutto il mondo. Quindi il vero problema che ci troviamo di fronte è come organizzare politicamente gli operai e i giovani contro la guerra, perché c'è un problema enorme. Questa guerra sembra ipertecnologica per la NATO, satelliti, centri di comando, razzi HIMARS che colpiscono nel raggio di 10 metri a 40 chilometri e così via. Ma poi cosa abbiamo visto? La guerra la stanno facendo nelle trincee, cioè c'è la guerra ipertecnologica e c'è la guerra fatta dagli uomini o dalle donne nelle trincee, che si ammazzano anche se non avranno più pallottole con le baionette. La guerra di oggi è la guerra di ieri più la modernità imperialistica. Anche per l'Italia si pone lo stesso problema. Si pone il problema di avere un esercito, una forza armata tecnologicamente avanzata che può fare al massimo una settimana di guerra e poi una massa di manovra, per cui avremo l'abolizione della leva, che è stata solo sospesa, avremo l'organizzazione di una parte della gioventù in esercito di riserva non marxista, di riserva per i generali, avremo anche spedizioni all'estero, ma anche questi eserciti possono dominare le masse. Pensiamo soltanto a quello che sta avvenendo in Africa. Il Sudan ha in questo momento da 3 anni una rivolta permanente della gioventù contro il colpo di Stato militare. Hanno fatto fuori il presidente islamista e sanguinario Bashir 3 anni fa. è stato sostituito momentaneamente da un governo civile e militare, poi i militari, che sono degli assassini, che hanno fatto dei massacri nel Darfur, nel Chad, inenarrabili, hanno cercato di usare lo stesso metodo contro la gioventù insorta a Khartoum, a Omdurman e nelle altre città. E non ci sono ancora riusciti. Questo cosa significa? Che oggi c'è un protagonista di cui non si parla nella geopolitica e non si parla sui giornali, ma è l'enorme sviluppo del proletariato, disoccupato o occupato che sia, nei paesi dell'Africa e dell'Asia, meno in Europa, dove abbiamo un decremento, e l'enorme capacità di mobilitazione per la propria sopravvivenza di queste forze sociali. Dovremmo discutere di come gli imperialisti, le grandi e medie potenze, possano scatenare delle guerre terribili, ma malgrado questo non dominare il terreno su cui si muovono. Purtroppo in questo momento in Ucraina e in Russia le forze nazionaliste, il terrore nazionalista, il terrore militarista oscurano tutto. Però com'è possibile che vengano buttate nella macina della morte da Zelensky e da Putin tutti questi giovani soldati senza, mentre aumenta la miseria all'interno? Ci potrà essere anche un'esplosione. Ed è a questo che dobbiamo dedicare ogni sforzo di analisi e ogni sforzo di conoscenza e di collegamento, se fosse possibile, con forze politiche avanzate. Io ho sono estremamente pessimista su ciò che faranno le classi dominanti imperialiste o nazionali in crisi. E vedendo quello che hanno fatto in Yemen o quello che hanno fatto in Ucraina, il pessimismo è logico. Sono moderatamente ottimista per la reazione di una massa che non può essere contenuta militarmente. Speriamo in bene. Basta andare sul sito del Ministero della Difesa, trovi tutto. Sì, no, perché non si... Più che altro... Non è per noi, ma siccome sei lì. No, ci sono i collegati. Ma potevi ripetere tutti. La prima è se li potete mettere a disposizione, perché è più pratico, no? Anche perché oggi noi vi sentiamo, vi abbiamo sentito, però se da qualche parte sono disponibili, chi non c'era oggi né collegato né fuori magari si rilegge. La seconda è sull'ultima cosa che hai detto, che con cui avevi chiuso anche l'altro intervento. Se una delle chiavi di svolta potranno essere coloro che si ribelleranno e faranno i disfattisti in quei paesi, quelli che stanno combattendo, qui siamo le retrovie, tutta l'organizzazione che possiamo dirci, noi siamo l'organizzazione delle retrovie, bene male. Lì stanno combattendo, ci sono forze politiche, non dico tanto della Russia, ma in Ucraina, perché io, scandagliato con le mie scarse capacità, non mi è sembrato che ci siano forze politiche, neanche minoritarie, pulviscolari, che stiano facendo un ragionamento come quello che dicevi tu, cioè un ragionamento di carattere disfattista, cioè un ragionamento di disarmiamo il nostro di esercito, no? Modello quello che si fece in altri anni. Vi chiedevo se avete notizie di questi. Sì, noi abbiamo pubblicato qualcosa in passato, sicuramente in Russia, e sta andando avanti, ci sono delle forze che si muovono contro la guerra. In Ucraina è in corso in questo momento un grosso dibattito politico. Da quello che mi sembra di capire, la maggioranza all'interno del movimento anarchico si schiera con il combattere contro i russi, una parte di movimento anarchico a Kiev si sta schierando assieme a una forza che mi sembra che si chiami Movimento Socialista Ucraino, però adesso non sono sicuro, per il disfattismo rispetto a questo tipo di guerra. Questa qui è la situazione. In Bielorussia sono schierati per contrastare l'intervento russo armi alla mano. E io penso che questo qui sia il grosso dibattito politico che noi dobbiamo affrontare su questa questione. Avrei chiesto di intervenire, lo dico adesso. Secondo me è molto importante dare questi elementi della dinamica del capitalismo italiano, come si sta muovendo, come sta andando in guerra, per sfatare un po' la mitologia e l'ideologia dominante su quello che sta facendo. Il problema politico centrale che noi abbiamo oggi in questa guerra è che la maggioranza di chi si dice che è contro la guerra oggi in Europa e l'Ucraina in realtà sta appoggiando la guerra con il fatto che è d'accordo col fornire le armi all'Ucraina contro l'aggressore russo. Che i russi siano aggressori non c'è problema a discuterne. Che questa aggressione avvenga anche per la politica della NATO contro la Russia, è vero anche questo. Sono due politiche diverse contro il proletariato di tutti i paesi. Il disfattismo è fare emergere questo. Oggi non esiste più un movimento proletario organizzato né in Italia a livello internazionale. Noi veniamo da una rottura storica della Prima Guerra Mondiale in cui il disfattismo ha perso, tra virgolette, c'è stata la rivoluzione russa, ci sono stati degli episodi di disfattismo sui fronti, ma poi da quella esperienza in poi lo stalinismo ha imposto che c'era un alleato da appoggiare nella guerra, che c'era qualcuno con cui fare alleanza contro il nemico peggiore, e da lì il proletariato è stato fregato, distrutto come autonomia, ma è iniziato ancora prima. Noi in Italia siamo tra i più grossi di questo, faccio un solo esempio per capirci. Noi abbiamo in Italia un eroe nazionale che è Cesare Battisti, che non è quel che è il poveraccio rinchiuso in carcere oggi in maniera abominevole, ma Cesare Battisti, quello che venne ammazzato dagli austriaci. In Italia si racconta che era, ed era un patriota, non si dice che era un parlamentare del Parlamento austriaco, in cui andava a Vienna al Parlamento, del Partito Socialista Austriaco, che diceva che era contro la guerra. Appena scatta la guerra, gli austriaci si mettono con gli austriaci e i tedeschi e gli italiani vanno con gli italiani e mandano tutti al fronte a combattere. Da quel momento, da queste cose, è iniziato che noi dovremmo schierarci con qualcuno. Con quel poco che noi possiamo fare come centro di documentazione dal 2017, e dare degli elementi per far riemergere i nodi che il proletariato non ha alcunché da difendere, da schierarsi. Noi siamo contro l'Italia innanzitutto e siamo contro gli Stati Uniti, ma siamo anche contro i russi come siamo contro gli ucraini. E il proletariato deve fare lo stesso in ogni paese. Certo, per noi è facile qui farlo. In Ucraina sarà un pochino più difficile perché ti mandano in campo di concentramento, perché ti arrestano o ti sparano, insomma ti mandano dentro. Però è una porta stretta. Noi come proletariato, ma anche l'umanità oggi ormai, perché la guerra sta diventando un problema di umanità, non solo di proletariato, o hai questo che dice alla guerra no, ma trasformando la guerra imperialista in guerra civile. Oggi è uno slogan del tutto astratto, ma questi non te lo fanno fare come cosa retorica o morale, che diciamo no, noi la guerra non facciamo, ci rifiutiamo di andare al fronte e disertiamo. Quelli ti ci portano con la forza, ti sparano, ti arrestano, ti fanno di tutti i colori. Una volta si andava dentro alla Prima Guerra Mondiale perché tu dicevi che eri contro, venivi arrestato. Oggi è ancora peggio le leggi che ci sono. Noi abbiamo la legge 145 del 2016, che è la legge quadro sulle missioni militari, che ha fatto piazza pulita di qualunque... Vi ricordate il discorso che la Costituzione italiana impedisce di fornire armi a un paese che sia in guerra, eccetera. Grazie a una legge del centro-sinistra, e siamo sempre Minniti, Gentiloni, questa gente qua, altro che la Meloni, possono fare quel cazzo che si vuole. Si vota una volta all'anno, si mandano missioni a destra e a sinistra, eccetera, sì, e si fa la relazione dopo. Allora, con questo bisogna organizzare la rottura. Quello che noi possiamo fare nel nostro piccolo è iniziare a dirlo che va fatto, certo. Bisognerà organizzarsi nei posti di lavoro, nella società, sul territorio, perché questa non è una cazzata, ma qui abbiamo di fronte un fatto che ci stanno levando l'orizzonte del futuro. C'è chi ha una certa età e dice magari vedrò la fine, altri che sono giovani. Cerchiamo di passare un testimone, di lasciare qualche cosa, perché è spaventoso. Cioè, oggi avere un individuo, uno come Crosetto che è al governo e porta avanti la guerra perché è il suo lavoro, non è altro, cioè siamo arrivati a questo. O qual è l'opposizione, il centro-sinistra, ma cioè, la gente muore dappertutto per la guerra è interrotta dal 45 ad oggi in ogni paese. Moralmente non ti ci credono, non ti seguono, cioè, bisogna rivolgersi, andare a creare una rottura su chi oggi dice non voglio, però bisogna non volerlo fino in fondo, va chiuso. E va chiuso con tutto quello che si muove. Noi siamo tra i più grossi, non solo esportatori d'armi, ma di quelli che hanno un legame fondamentale con uno dei paesi che studia la guerra giorno per giorno, e chiudo, che è Israele. Israele, io sono radicalmente antisionista, anche se non ho niente contro gli ebrei, ma per arrivare, cioè, vi ricordate tutti gli attacchi contro Gaza, una cosa poco nota è che questi hanno fatto una città finta nel deserto del Negev in cui hanno mandato l'esercito per fare le prove di come si occupava Gaza. Ecco, questo è il futuro che questi ci preparano. C'è qualcun altro? Se no rispondo un attimo. Sì. Sì, sì. Vuoi sederti qua? Sì. Ma dov'è il microfono? No, è lì. Ok, perfetto. Molto meglio. Allora, parlare di popolazione non è dire popolo. Vuol dire invece che in molti dei paesi che noi snobbiamo o di cui parliamo solo dal nostro punto di vista di europei che combattono all'interno del loro recinto, in molti di questi paesi la massa, che non è necessariamente solo il proletariato, ma è chiaramente diretta per forza di cose da un proletariato, anche semplicemente perché è più numeroso, no? Si organizza, siamo noi che non lo sappiamo perché non entriamo nell'ottica di non essere di essere non solo europei. Si organizzano in Libia, certo, non solamente contro il loro imperialismo, si organizzano contro gli italiani, così come in Iraq si organizzano contro gli iraniani, perché hanno un problema molto più diretto con questo. Si organizzano contro i loro dirigenti e si organizzano tra loro, non lo sappiamo, in Libia, in Iraq, in Siria, oddio, quei pochi che sono rimasti vivi, per esempio in Iran. Iran è una situazione in cui c'è un'intera popolazione che ha messo in piedi, che sta percorrendo una via rivoluzionaria nel totale disinteresse nostro. È vero che lì non stiamo andando a fare la guerra, ma è anche vero che siamo comunque partecipi di molte imprese che portano i presupposti della guerra, dall'economia al petrolio, al gas, South Pars per esempio, in cui è implicata l'ENI. Sono tutti paesi in cui masse piccole o grandi, ma progressivamente, si portano su un terreno su un terreno rivoluzionario in prospettiva o direttamente, e noi abbiamo comunque lasciato che venissero sterminati, quello che è stato fatto in Iraq 2019-2020, sono ancora per le strade, ma noi non abbiamo mosso un dito perché non siamo medio orientali, no? Non siamo, cioè noi siamo gli europei che devono combattere contro il loro imperialismo, ah sì? E dare una mano, cioè essere, cooperare, no? Sapere che cosa queste popolazioni fanno, che cosa possiamo fare noi per loro e loro per noi, cosa possiamo fare insieme. Questo non, pare non ci competa, perché noi organizziamo solo i proletari organizzati in partiti, in fazioni, in gruppi che hanno un titolo. Per esempio adesso in Iran un titolo non ce l'hanno, se lo creeranno. Ci sarà, sempre che non si arrivi, sempre che si arrivi a un qualche successo e non si arrivi dopo una guerra civile, arriveranno comunque a descriversi, a potersi definire politicamente. Non lo fanno ancora per la più parte. Allora per noi non esistono perché non sono proletari organizzati e non si chiamano comunisti? No, però io, quello che io sto dicendo è che noi non siamo in grado di percepirci altro che come europei del nostro recinto. Bene, sono contenta se non è vero. Io non me ne sono accorta. Scusa, basta che tu dici delle cose che noi non abbiamo mai detto. Anzi, dal 2018 che l'Iran è in suo movimento e che abbiamo sempre seguito quell'importantissimo movimento. Ti ho fatto l'esempio del Sudan. Il Sudan è un'avanguardia della lotta di massa contro una dittatura militare. Dovremmo imparare tanto. E però nel nostro piccolo attacchiamo uno degli avvoltoi che è l'Italia, che stanno pasteggiando sulla pelle e sul cuore dell'Africa, cioè non dell'Africa in generale, non di Al-Sisi, ma degli operai egiziani o del popolo, nel senso più povero, della Libia di oggi, che è stata portata alla guerra anche per l'Italia, e così via. Quindi tu stai facendo una polemica con te stessa. Non mettere in bocca a me o ad altri compagni cose che non solo non pensiamo, ma contro le quali combattiamo. Ma poi bisognerebbe anche un po' scendere sulla terra tutti, intendo dire, no? Quando si dice bello gli interventi, eccetera, ma noi prima di parlare di africani o di europei, rimaniamo qui dove siamo e qui dove siamo. Il proletariato, chiamalo come vuoi, io lo chiamo proletariato, non è in grado di sviluppare una lotta per sé qui. Figurati te se adesso gli viene in mente di appoggiare quelli là del Belucistan. Cioè, voglio dire, vediamo di ragionare, perché sennò è tutto bello, ma diventa l'ONG senza remunerazione però, Diamo ragione a Di Maio. Diamo ragione a Di Maio, sì. Però proprio che non è in grado di sviluppare, no. Non ho capito. Le quote ci sono, è che la gente non partecipa. E va bene. Se non è l'uovo è la gallina. Sì, ho capito, lo so. Vabbè, però sai. Ma scusate compagni, noi stasera abbiamo affrontato un piccolo argomento, abbiamo cercato di dire, guardate l'ipocrisia dell'imperialismo italiano, basta, non potevamo affrontare l'intero mondo, altre volte lo faremo. Qua non è che c'è qualcuno che c'ha la soluzione in tasca, cioè, il fatto è che fino a un quindicennio fa cioè le piazze erano gremite di gente, no, che erano alla guerra. c'era un mondo di situazioni e di gente che si organizzava per tutto quello che era un sostenere la popolazione tartassata dalla guerra, sia da un lato che dall'altro. Oggi, rispetto a quello che è stato il capitalismo e sti cazzi di imperi, no? E ci troviamo in quella che è la situazione, quel che è, come diceva giustamente prima Francesco, no? Il centro di documentazione cerca di dare degli spunti, degli stimoli, degli elementi. Cioè, e per chiudere, come dico io, Wagliù, cioè, il campo è il campo, il campo è il territorio. Cioè, se oggi ti piglieranno per marziane, anche se uno c'ha una certa età, però andare a volantinare questo, cioè, no, costruire trasmissione di sapere ad altra gente, andare a volantinare dove ne c'è la gente, dove ci sono i luoghi da non solo da andare a volantinare davanti a questi luoghi, andare a volantinare davanti a questi luoghi, venditori di armi, piuttosto che, come si diceva prima, c'è imprenditori, sempre rispetto a quello che è il percorso del guerrafondaio, c'è, e quello è anche un sabotaggio mettersi là davanti, hai capito? C'è in 5, in 6, in 2, c'è, no, e non c'è bisogno bisogna fare questo tipo di comunicazione, c'è, dal mio punto di vista, l'esserci proprio, l'esserci, perché se no ci sono i social anche, che potrebbero essere anche degli strumenti utilizzati, come si diceva una volta, la strumentazione, la tecnologia al popolo, però questi portano in un discorso che è quella nicchia di chi si iscrive in quelle robe là. Cioè, era per rispondere a prima, cioè, se io rifiuto Facebook, ma se uno non è in su Facebook, porco di quel Dio, no? Scusatemi a tutti quelli che ci ascoltano, no? Non sa un cazzo di quello che sta succedendo, che c'è quella situazione, che è alla guerra, perché non ci sono nemmeno più le radio come funzionava forse una volta Radio Popolare. Cioè, se tu non entri in quelli che sono quei cazzi di meccanismi dove tu sei uno che ragiona legalmente, che no, rifiuta l'illegalità, che cazzo è l'illegale o legale oggi? Cioè, rispetto a quello che sono costruite queste guerre, sono state costruite tutte sulla legalità e con i soldi dei contribuenti. E quello è il dato di fatto. E quindi la gente deve scendere in strada, no? Ognuno nel proprio quartiere, ognuno dove si trova a fare delle cose, ma deve uscire fuori, cioè esserci, no? Con qualsiasi tipo di strumento, il volantino, il megafonaggio, il corpo, tutto quel cazzo che si può mettere in campo. Cioè. Beh, ragazzi, come mi si dice? No, e non è una soluzione, scusatemi. No. C'è qualcuno? No, lì non c'è nessuno, come si dice. Possiamo anche chiudere, Ci vediamo la prossima volta. Bene, dai, alla prossima.